tra inghippi ed inganni. È arrivato il momento per me di salpare su questa barchetta e di là arrivare. Siccome di soldi ne ho piena la pancia, Caronte, ti lascio la mancia. Ripenso che in vita dannarsi non ha molto senso. Che poi una mattina d'estate o d'inverno di colpo trapassi e ti rechi all'inferno. E poi che marachelle tutti le han compiute, le anime qui son riunite. E di sopra c'è un sacco di spazio che è sfitto, qui invece siamo tanti e non si paga l'affitto. Ma che gioia, che caldo tra demoni e fuoco, fa caldo, c'è gente e mi presto al gioco. Fra vizi e peccati c'è sempre il sorriso alla faccia dei tristi lassù in paradiso. Ho rivisto persone assai interessanti, noi tutti ritenevamo santi. E qui dove nulla è ormai più sbagliato, io mi sento tra amici, mi sento rinato. Può giocare d'azzardo, far sesso con tutti, non trascorre giornata senza gara di rutti. Voilà che follie, che gaia baldanza, si ride fin quando non duole la panza. C'è pure un bel po' prelati, sì è vero, dai demoni siamo vessati, ma noi che ci frega, fumiamo e beviamo ed in coro felici cantiamo. Ma che gioia, che gaudio fra demoni e fuoco, fa caldo, c'è gente e mi presto al fuoco. Tra vizi e peccati c'è sempre il sorriso alla faccia dei tristi lassù in paradiso. Scandla Spirantina! Non vale la pena! Dai, vieni, ci sono parlato di paravotti! Scusa, che c'è? Dai, guarda, Coi, o gas, air condition, va! La, la, la, la, la! Miei cari, venite a trovarci, venite a mangiare, venite ad amarci. Ma che cosa è più bello di un luogo si fa?